in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha due approfondimenti in prima pagina su un tema che riguarda tutti noi, o già oggi o in prospettiva, che è quello delle pensioni. La notizia è che c'è un emendamento proposto al governo per la legge finanziaria che sarà presto in discussione al Parlamento, e questo emendamento riguarda gli acquisti a lungo termine degli enti che gestiscono il risparmio previdenziale. Da qui il titolo: casse e fondi meno tasse sugli investimenti in bond, e da questo può venire una possibile liquidità di 11 miliardi per le imprese. L'analisi di Carmine Fottina a pagina 3 e la cronaca di tutto questo a pagina 3 sempre di Davide Colombo. Sempre in tema di pensioni, vi dicevo, un altro articolo in prima pagina: per il prestito di 3 anni con l'APE, la pensione anticipata, anticipo fino all'85 della pensione, tetto al 95,90 per chi lascia il lavoro 1 o 2 anni prima. E poi questa notizia che con l'uscita anticipata non ci sarà la tredicesima. Dalla prima pagina del Sole poi moltissime le analisi, ne vedremo alcune anche dopo, e poi la consueta lettera al risparmiatore della domenica. La pagina 16, l'approfondimento di Vittorio Carlini, un collega della redazione di Finanza che ogni settimana si occupa di un titolo quotato. Questa settimana è la ST Microelectronics, una delle poche aziende high tech italiane che possono competere a livello globale. Internet delle cose e auto intelligente spingono la crescita. Il Corriere della Sera ha il titolo centrale dedicato a quella che viene definita la sfida aperta nel centrodestra. Il riferimento è a quello che sicuramente avete sentito nei telegiornali di ieri, nel GR. Da una parte le dichiarazioni di Matteo Salvini, che si è autocandidato a leader del centrodestra, era in piazza con Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Toti, che è governatore della Liguria ma è di Forza Italia, e dall'altra parte Parisi, che è a seconda di tutti, e lo vedremo anche sul giornale, perché al giornale ha scritto una lettera aperta a Silvio Berlusconi proprio su questo. È appunto a detta di tutti il leader designato dall'attuale leader di Forza Italia, che è Silvio Berlusconi, è il leader designato a succederlo, e lui Stefano Parisi era a Firenze per perorare la causa del no al referendum costituzionale del 4 dicembre, e proprio da Firenze ha detto: noi non siamo, testuale, la roba di lui era a Padova e ha detto: non siamo la roba di Firenze, dove invece appunto c'erano Salvini, Meloni e Toti. Da qui il titolo: sfida aperta nel centrodestra. Un titolo però, come sapete, i giornali a volte usano questa soluzione grafica, un titolo centrale che è quello di cui vi ho appena dato conto, e poi però il sopra, nel cosiddetto palchettone, c'è un approfondimento sulla questione americana, il piano di Trump per i primi 100 giorni, e poi un richiamo al fatto che i cortei che sono iniziati già mercoledì, il giorno dopo le elezioni americane, i cortei anti-Trump proseguono, e ieri c'è stato anche un ferito. La Repubblica fa sostanzialmente la stessa scelta del Corriere, titolo principale: due destre in piazza, Salvini, io leader, e poi però grande spazio anche alle vicende americane. In questo caso addirittura la Repubblica sceglie di pubblicare una fotonotizia con una delle manifestanti, in questo caso a New York, ma le manifestazioni anti-Trump ci sono state in moltissime città, e poi questa dichiarazione di Hillary che ieri ha detto: ho perso per colpa dell'FBI. Il riferimento è a quell'inchiesta avviata dall'FBI 10 giorni circa prima del voto, che secondo Hillary a questo punto le avrebbe fatto perdere quel vantaggio comunque risicato che aveva secondo tutti i sondaggi, tra l'altro poi accusati di inadeguatezze. E in questo caso però è molto interessante un intervento che Repubblica traduce di Bernie Sanders, che era l'altro candidato del Partito Democratico durante la lunga corsa delle primarie, le primarie in cui i due partiti degli Stati Uniti scelgono i rispettivi candidati alle elezioni. Bernie Sanders poi perse la nomination a favore di Hillary Clinton. Il titolo dell'intervento, che poi trovate a pagina 27, è: addolorato ma non sorpreso. Il Messaggero invece titola proprio sull'America, Trump, il contratto dei 100 giorni, questa è una pratica molto anglosassone che poi è stata mutuata anche da tanti leader europei, cioè fare subito un programma per i 100 giorni, cioè poco più dei primi 3 mesi di governo, in cui si dice sempre c'è ancora la luna di miele con gli elettori, quindi bene dire subito quello che si farà e poi il più possibile in quei 3 mesi concentrare le misure che si sono annunciate, anche magari quando hanno conseguenze impopolari, perché appunto c'è ancora questa luna di miele con gli elettori. Il tycoon ha presentato ai membri del Congresso i primi 18 provvedimenti del programma, stretta su immigrati e sicurezza, e poi c'è un accenno a quella dichiarazione di Hillary che appunto accusa l'FBI, abbiamo perso per colpa loro. Il Messaggero è uno dei pochi quotidiani che richiama in prima pagina il concerto di Sting, di cui avete sentito anche nel GR, ieri al Bataclan, un anno esatto dopo la strage in quel teatro, che tra l'altro in quel teatro ci fu la maggior parte delle vittime, quasi 100, ma poi ricorderete ci furono anche 2 attentati in 2 bistrò diversi e poi il kamikaze che cercava di entrare nello stadio e per un errore suo è esploso fuori dallo stadio, ma lì fu proprio una strage mancata. Quindi quella notte appunto è stata una notte di attentati non solo al Bataclan. La Stampa ha un titolo sostanzialmente simile, quello più importante, dedicato alle elezioni americane, quindi però sceglie di proprio il titolo in sé è dedicato alle proteste, quindi a New York la marcia contro Trump, c'è il riferimento al ferito di Portland e poi molti commenti, molti reportage. La fotonotizia in questo caso però è dedicata a un'inchiesta della Stampa che poi trovate a pagina 2 e 3. Il titolo è Tabaccaia, la sfida delle slot machine. Infatti sono stati denunciati alla Corte dei Conti i sindaci che le vietano. Perché? Qual è la motivazione di questa denuncia? Perché vietandole causano un danno erariale, che è sicuramente vero ed è il grande argomento naturalmente che si usa pro o contro il gioco d'azzardo legalizzato, perché su questo gioco d'azzardo lo Stato incassa molte tasse e quindi e forse è uno dei motivi principali per il quale è così difficile vietarlo, perché appunto vengono a mancare gli introiti da tasse. E da qui il ricorso dei tabaccai che nelle regioni o nei comuni nei quali ai tabaccai è stato vietato di installare queste slot machine nei loro locali e loro hanno fatto ricorso. Vi cito la prima pagina dell'Avvenire perché ha un titolo completamente diverso, perché come avete sentito anche in Oltretevere il giubileo sta volgendo al termine, il giubileo della misericordia, chiudono le porte sante nelle diocesi e il titolo dell'Avvenire è Un mondo di misericordia, sicuramente un appello di cui abbiamo bisogno, ci sono ancora tante guerre in corso, penso solo a quella della Siria di cui oggi non parla nessuno tranne l'Avvenire e tutti gli altri focolai di guerra in giro per il mondo. Libero anche in questo caso, che è il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, un quotidiano di centrodestra che però appunto titola su quello che abbiamo visto succedere ieri tra Firenze e Padova e da qui il titolo molto forte, pugilato Salvini-Berlusconi, proprio perché come dicevamo Berlusconi in realtà ha già dato la sua questa investitura di successore a Parisi e però invece Salvini si è autocandidato a essere lui il leader del centrodestra. La fotonotizia si intitola così Compagno Bergoglio e richiama un lungo articolo di Antonio Socci naturalmente a pagina 11 di cui poi vi leggerò una piccola parte dopo la pausa. E la teoria adesso di Socci è la sinistra lo elegge come nuovo leader, Papa Francesco, e c'è già il programma immigrazionista e lui, i comunisti, la pensano come noi. E la foto scelta è quella, la ricorderete, era già stata pubblicata da molti giornali, quel crocefisso a forma di falce e martello che Papa Francesco ricevette in dono dal presidente della Bolivia Evo Morales quando andò in visita appunto in Bolivia. Ma dopo vedremo appunto vi leggerò parte di questo lungo articolo di Antonio Socci. Ora ci fermiamo un attimo per una pausa. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. In primo piano, Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, vi segnalavo l'articolo richiamato in prima pagina su Libero di Antonio Socci, che poi trovate a pagina 11, intitolato Il Papa è il leader mondiale dei no global. Ve ne leggo una piccolissima parte, si fa riferimento all'intervista pubblicata da Repubblica venerdì scorso del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari a Papa Bergoglio, definita l'ennesima intervista di Scalfari a Bergoglio, e stavolta si è trattato di una intervista totalmente politica. La lotta alle disuguaglianze, la questione immigrazione come il centro di tutto, e lo stesso Scalfari ha commentato compiaciuto: questo, come lei sa, è il programma del socialismo marxiano e poi del comunismo. Bergoglio non ha obiettato, anzi ha risposto che i comunisti la pensano come i cristiani. Vi leggo poi le ultimissime righe che danno proprio l'idea di questa avversione di Antonio Socci per Papa Francesco, paragonando le parole di Papa Francesco a quelle di un cardinale africano, Robert Sarah, conclude. Così parla, riferendosi a quello che ha detto Sara sul ruolo della Chiesa in Africa, così parla un vero pastore della Chiesa, da uomo di Dio, non da uomo di potere, cioè da politico come Papa Francesco. Dalla prima pagina di Libero anche un lungo articolo di Vittorio Feltri, che poi trovate alla pagina 24, che è sostanzialmente una recensione del libro di Giuseppe Remuzzi, uno dei nefrologi più famosi d'Italia, ma anche un grandissimo divulgatore, che ha appena pubblicato un libro che si intitola Siamo geni, uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni. Geni nel senso i geni del nostro DNA, non geni nel senso di genio, geniale. E l'articolo di Feltri coglie anche l'occasione per ricordare Umberto Veronesi, scomparso pochi giorni fa, che sicuramente uno a sua volta aveva 90 anni, ma è stato uno dei più famosi oncologi al mondo, ha anche inventato una tecnica chirurgica particolare per rendere meno invasivi gli interventi di mastectomia. E il titolo: Remuzzi e Veronesi, geni fra scienza e coscienza. La verità, come sempre, ha un titolo, come quasi sempre, un articolo, un titolo diverso, perché non vuole essere un giornale di cronaca, ma più di approfondimento, e va alla ricerca di notizie che magari sfuggono un po' ai radar della grande informazione, dei grandi giornali. E La Verità è il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro un mese e mezzo fa. Il titolo principale oggi è: Banca Italia lasciò alla Banca Popolare di Vicenza di Zonin, che sapete è uno dei disastri bancari di questo anno, la libertà di spolpare 35.000 clienti. C'è un dossier del quale parla Francesco Bonazzi poi a pagina 3, un dossier della Consob, che dovrebbe essere appunto l'autorità di vigilanza sui mercati, che inchioda la Banca Veneta. L'ultima vendita di azioni doveva essere impedita. Visto che abbiamo parlato di Veronesi, un articolo che comunque, come sempre, vale la pena, insomma, di leggere anche pareri contrari o vedere le cose sempre da punti di vista diversi. Stefano Lorenzetto, che è ha seguito Belpietro in questa avventura della verità, parla di Veronesi con un titolo che dice già molto: controbiografia di Veronesi, grande a metà, aborto, utero in affitto, eutanasia, droga, nozze gay, prostituzione, gli piaceva tutto. E trovate questo articolo poi molto lungo a pagina 13 della Verità. Il Fatto Quotidiano invece si concentra nel titolo principale sulla grande polemica che c'è su questa lettera che è stata inviata a tutti gli italiani residenti all'estero dal Premier Matteo Renzi sulla questione del referendum, e con un invito a votare sì. Adesso non si riesce a capire se questi elenchi degli italiani all'estero sono stati dati soltanto ai comitati per il sì, quindi al governo, oppure se erano a disposizione di tutti e semplicemente c'è chi non ha pensato di contattare gli italiani all'estero. In ogni caso, molto polemico il titolo del Fatto Quotidiano: referendum truccato, governo e regole dell'AGCOM a senso unico. E poi c'è anche riferimento alle dichiarazioni del ministro dell'interno Alfano, che per competenza si occupa di tutte le questioni che riguardano le elezioni, che dice che non c'è stato nessun atto illegittimo. Il Giornale titola su quello che abbiamo visto, e qui viene definita la sfida nel centrodestra, anzi addirittura nell'occhiello si scrive: effetto Trump, Salvini si candida premier, Parisi freddo, noi diversi, Berlusconi indica la via, meno tasse, facce nuove. Vi segnalo un titolo molto forte di un articolo che poi trovate a pagina 4 di Giancarlo Mazzucca: italiani senza voto da 5 anni, non stiamo meglio, l'eredità del golpe del 2011. Adesso, siccome sappiamo che in luglio un golpe vero c'è stato, un golpe, un controgolpe in Turchia, usare la parola golpe per quello che è successo in Italia 5 anni fa, cioè quando Salvini sostituì Letta al governo, mi sembra veramente un po' una scelta discutibile, diciamo così, delle parole. L'Unità, la piazzata di Salvini, quindi molto polemico il titolo dell'Unità, vuole sottolineare questa spaccatura che c'è nel centrodestra, come se nel centrosinistra non ce ne fossero. E poi vi segnalo l'editoriale di Walter Veltroni, ex segretario del PD, ex sindaco di Roma, ogni domenica interviene sull'Unità e qui è della serie io l'avevo detto, io l'avevo previsto, scrive, vi reggo le prime righe. E che l'editoriale si intitola Prima che sia troppo tardi. Il titolo del mio ultimo editoriale, quello di domenica scorsa, era Il mondo sospeso. Scrivevo al termine della più brutta campagna elettorale della storia americana che non mi fidavo dei sondaggi, che l'America non è quella delle aree metropolitane, che il mondo era un passo dalla svolta che avevamo paventato su queste colonne da luglio dell'anno scorso. Non sono un indovino, non faccio il bastian contrario. No, semplicemente osservo come la mia posizione di oggi, lontana per scelta dalla ruvidità del centro del ciclone, mi consente di fare. Chi legge queste colonne lo sa. Insomma, Veltroni aveva previsto tutto, continuerà a prevedere tutto, anche se non vuole essere chiamato indovino. E vabbè. Il manifesto ha una fotonotizia con una scattata a New York in quella manifestazione che abbiamo citato anti-Trump. Il titolo è Fa la cosa giusta, che sapete è anche il titolo di un film di Spike Lee di qualche anno fa. È un modo di dire molto diffuso in America, è Do the right thing, cioè fai la cosa giusta, appunto. E anche l'altro titolo della prima pagina è dedicato all'America, i primi 100 giorni, tasse e frontiere, che poi è il senso sicuramente di quello che ha detto ieri Donald Trump, come abbiamo visto per il manifesto. Questo ha chiaramente un'accezione negativa e sul Messaggero c'è una cronaca più neutra, diciamo, di queste prime misure annunciate da Trump, che del resto sono in perfetta linea con il suo programma elettorale. Vi segnalo anche che oggi con Repubblica, come sempre da quando l'Espresso è diretto da Tommaso Cernu, cioè da circa metà di agosto, con Repubblica c'è in edicola anche l'Espresso, anche in questo caso con una copertina dedicata alle non elezioni americane, ma lezioni americane. I dimenticati del nuovo secolo hanno fatto la rivoluzione a destra perché la sinistra non li ha voluti vedere. Uno shock epocale che non riguarda solo gli Stati Uniti, ma tutti noi. Ed è un articolo, l'articolo richiamato in prima pagina, che è del ex direttore di Repubblica, ora editorialista di Repubblica, Ezio Mauro. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore, perché il tanto spesso vituperato aeroporto di Malpensa, in realtà, che tra l'altro nell'ultimo anno e mezzo è stato veramente migliorato, soprattutto nella parte dei voli internazionali e intercontinentali, e ora scopriamo che, ce lo racconta Marco Morino, ha un record, Malpensa detiene un record, che è quello dei cargo. Lo scalo movimenta il 56% del traffico in Italia e in Europa è sesto. Boom a ottobre, quindi più 15%, miglior risultato mensile da sempre. Pensate, sono transitate in 10 mesi da Malpensa 500.000 tonnellate di merci. Come vi dicevo, la lettera al risparmiatore su ST Microelectronics la trovate a pagina 16, mentre il consueto appuntamento, consueto ormai da 5 settimane, questo nuovo appuntamento del Sole 24 Ore al sabato e la domenica, una pagina dedicata a sport e business, oggi Benedetto Giardina ci racconta il lato economico del basket, così potremmo dire. Basket, l'Eurolega guadagna PIL, i ricavi superano quota 400 milioni, e quindi un approfondimento, come sempre, non di solo calcio si può vivere lo sport e il business dello sport. Dal Corriere della Sera segnalo due interviste, una a Massimo D'Alema molto gustosa, che io adesso mi tengo via, perché annuncia: dopo il 4 di dicembre non mi occuperei più di politica in Italia. E io questa la metto via e poi voglio vedere se succede per davvero. In ogni caso, il virgolettato scelto dal Corriere per intitolare questa intervista di Dario Di Vico: Renzi si è posto fuori dai valori del PD, se vince il sì nascerà un partito suo. Questa è la previsione di Massimo D'Alema. Ma ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Chevelli, bentrovati per quest'ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi segnalo un'altra intervista sul Corriere a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. La fa Sergio Rizzo a pagina 15 e si intitola la riforma costituzionale, naturalmente, tra Stato e Regioni è giusto rimettere le cose a posto. Sapete che tra gli articoli che vengono modificati c'è appunto quello del rapporto tra Stato e Regioni, che secondo molti, da quando è stato introdotto da quando i precedenti cambiamenti sono stati introdotti, sono stati anche causati molti guai. L'ex magistrato dice: non si possono bloccare le grandi opere per paura della corruzione. Naturalmente il riferimento è quanto è successo a Roma, per esempio, per le Olimpiadi del 2024. E poi un'altra intervista di tutt'altro tono e a personaggio di tutt'altro tipo, a Manuel Agnelli, che come sapete è il frontman fondatore di questo gruppo musicale After Hours, che è quello che secondo tutti viene definito il giudice rivelazione del Talent X Factor, il talent show che vuole scoprire nuovi talenti musicali. È interessante perché sicuramente, insomma, chi segue X Factor, e quest'anno c'è un record di ascolti, non ha potuto non notarlo. E da qui il titolo dell'intervista di Elvira Serra: ho fatto il coach in Bocconi, sono stato 5 anni senza TV, però X Factor lo vinco io. Dalle pagine interne di Repubblica vi segnalo un ritorno sulla questione della legalizzazione delle droghe leggere. Ci sono quasi 60.000 firme raccolte dai radicali per fare una legge popolare, però c'è quella che Repubblica definisce la lobby dei contrari, riparte all'attacco della cannabis legale. Dal Messaggero vi segnalo, perché il Messaggero è l'unico giornale che pubblica quasi tutte le foto, ieri sono state assegnate a Roma le onorificenze al merito a donne e uomini dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e quindi il titolo "I 40 eroi civili di Mattarella". Sempre dal Messaggero, prima di passare ai supplementi culturali, un'ultima segnalazione: come ho fatto venerdì, insomma, il Messaggero sembra ormai l'unico a occuparsi di tutti il problema gigantesco della capitale, gigantesco per il debito che ha la capitale Roma e anche per le difficoltà gestionali della Giunta Raggi, e poi naturalmente c'è la grande inchiesta mafia capitale. E qui ci sono due approfondimenti sul Messaggero, anzi addirittura tre: uno sulla nomina di Raffaele Marra, capo del personale del comune, e questa nomina finisce in tribunale perché è una nomina illegittima. Poi c'è un approfondimento sul Giubileo: porte sante chiuse ma restano aperti i cantieri perché non sono finiti. E un'ultima questione, quella dei rifiuti, un altro problema grossissimo di Roma: stop rifiuti all'estero, caos a Natale. Cioè, sapete che la capitale non riesce a smaltire i suoi rifiuti, quindi li manda soprattutto in Austria, adesso è arrivato questo stop. Ma diciamo, passiamo ai, appunto, come dicevo, ai supplementi culturali, cominciando come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal Breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Vizi e Virtù ed è una citazione da Goethe. Per natura noi non possediamo alcun difetto che non possa assurgere a virtù, nessuna virtù che non possa diventare difetto. Scrive Ravasi: il carbone e i diamanti, così come il vetriolo e lo zucchero, è stato detto, hanno entrambi la stessa base, il carbonio nel primo caso, il glucosio nel secondo. Eppure gli esiti sono antitetici. Ha quindi ragione Goethe con questa sua massima, che potremmo applicare agli stessi vizi capitali. Così la coscienza dell'ego è necessaria, ma il superego della superbia è devastante. Il risparmio è lodevole, l'avarizia è un morbo insaziabile. Il sesso è vitale e nella persona diventa amore, mentre la lussuria è bieco istinto di possesso. L'ira è un vizio, lo sdegno una virtù. Cibarsi è un atto indispensabile, persino rituale. La golosità insaziabile è solo una buffata ingorda. La competizione è sana, l'invidia è deleteria. La quiete riflessiva è dieta dell'anima, la pigrizia è vuoto e inconsistenza. Sul crinale di ogni scelta etica si erge dunque la nostra libertà e volontà. E invece il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, è dedicato a personaggi che incarnano il cambiamento, come il nuovo amministratore delegato di Unicredit Jean-Pierre Mustier, o Julian Sharka, che è un emigrato dall'Albania che ha fatto poi una start-up qui in Italia. Il coraggio di Sharka, Mustier e la velocità del cambiamento. Il pezzo di copertina vero e proprio, però, è dedicato a una questione etica, come si misura la coscienza, ed è un articolo di Giulio Tononi, primo di una serie che parla appunto della ricerca neuroscientifica sulla, sulla coscienza. E poi, a proposito di Veronesi, la pubblicazione di una parte del suo, quello che viene definito un po' il suo testamento, un testamento morale, e che con le sue parole, la sua opinione sull'eutanasia, la libertà di morire con dignità. È un documento scritto per il comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi, che da anni ormai chiede una legge sull'eutanasia, che in Italia non c'è. E poi naturalmente anche qui, quinta settimana, l'iniziativa del Sole 24 Ore, che è partita insieme all'altra di cui parlavamo prima, Sport e Business, sono 4 pagine sul domenicale dedicate ai lettori più giovani. Si intitola C'è qualcuno che sa leggere, e in questo caso il titolo, l'articolo principale di oggi, come sempre, è illustrato da un bellissimo disegno di Franco Matticchio, che è un topo che, come se fosse un canguro col marsupio, ha un bancomat, e naturalmente il topo si chiama il Bancorat. Ma in realtà l'articolo di Paolo Legrenzi parla dell'economia, e tutti al mercato con Mary Poppins, le leggi dell'economia sono più facili da capire di quelle della fisica, due modi diversi di rispondere ai perché dei bambini. Passiamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Adriana Varejao, e poi ci sono 3 pagine di curate da Serena Danna, di colloquio, di conversazione tra Roberto Saviano, del quale è appena uscito il nuovo libro L'apparenza dei bambini, che sta ottenendo tantissime recensioni, soprattutto su Repubblica, con cui Roberto Saviano collabora, e Matthew Weiner, che è l'inventore e lo sceneggiatore della serie Mad Men, una delle più delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, che ora si è conclusa. Parlano di tutto, perché come sapete Roberto Saviano si considera, o almeno così pare, un tuttologo, e quindi in occasione dell'uscita del romanzo di Roberto Saviano, la lettura organizzata un dialogo, temi, la scrittura narrativa, quella per la serie TV, il dominio della trama dei personaggi, la realtà dentro la finzione, fino ai conflitti individuali e sociali, cioè la fine del sogno del futuro. Se non posso costruire il mio avvenire attraverso lavoro e impegno, mi gioco il presente. Dalla lettura però vi segnalo anche la recensione di un libro che deve essere bellissimo, io sicuramente andrò a comprarlo. La recensione si intitola Giganti senza speranza, una donna in Alaska sulle navi dei pescatori. Questa, l'autrice di questo libro, che si chiama Il grande marinaio, lei si chiama Catherine Pulain, il libro è pubblicato da Neri Pozza, ha passato un anno appunto, ha condiviso per 10 anni i rischi e le fatiche di un mestiere tra i più pesanti, quello appunto di pescatore in Alaska. Interessantissimo, secondo me, l'articolo di Ida Bozzi a pagina 16-17 sulla traduzione. Montalmano Je suis, tradurre l'intraducibile, appunto questo tema, come forse ho già detto altre volte, insomma tradurre è sempre un po' tradire, non ci potrà mai essere una traduzione fedele, perché se a volte se è letterale comunque non rende l'idea, e se si allontana troppo dall'originale vale lo stesso, quindi è veramente un'alchimia quella della traduzione. Ci sono molti esempi, con questa è veramente la curiosità dell'articolo, il testo originale e poi le traduzioni, con due possibilità di traduzione per far capire come appunto si può tradurre in tanti modi diversi, e non sono soltanto i testi stranieri come sono stati tradotti in italiano, ma anche, curioso, come alcuni testi italiani, appunto Andrea Camilleri o addirittura Giacomo Leopardi, sono stati tradotti in altre lingue. Ultima segnalazione dal Corriere della Sera, 2 pagine dedicate a un libro che è appena stato pubblicato dall'editore Nuage, e c'è anche una mostra in corso a Milano, e si intitola Il tè di Alice, e se il tè di Alice diventa caffè, con la scena clou di Lewis Carroll, dove appunto Alice prende il tè, si cimentano 37 matite di illustratori. Uno scrittore si chiede oggi come sarebbe oggi quel tavolo. Era però l'ultima segnalazione per oggi, e in realtà vi segnalo giusto la copertina della domenica della Repubblica, perché è una lunga conversazione tra Ian McEwan e Julian Barnes, due dei più importanti scrittori inglesi contemporanei, gli amici geniali, confessioni e sogni dei due autori inglesi in un incontro speciale. Era però davvero l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.